In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. E l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. E in un mondo che liscio nero è, libre respiravamo tu e io, però la verità clara brilla hoy, y nítida su música. Emociones se expresan ya purísimas en ti. El velo del fantasma del pasado cayendo deja el cuadro inmaculado y se alza un viento tímido de amor, de puro amor. E riscopro te, dolce compagno che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi, pietre un giorno case ricoperte, selvatiche rivivono, ci chiamano, boschi abbandonato y por ello sobreviviendo virgen, se abre o no, se cierra o no. Sono.